Il vecchio gatto e il topolino da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, settembre 2007, Roma. Un topolino senza esperienza, caduto nelle zampe a un vecchio gatto, ne implora la clemenza e crede di commuover Mangiaratto. Pietà, lasciami vivere, un topolino sì piccolo non può creare offesa alla casa e al padron esser di spesa. D'un chicco io vivo al moderato prezzo, e d'una noce m'arrotondo tanto che quasi crepo in mezzo. Son magro, aspetta almeno a darmi ai figli tuoi quando sarò più pieno. Così pregava il povero animale, ma l'altro: caro, addio, ti pare naturale un tal discorso fatto a un pari mio? Saresti men balordo se la contassi a un sordo. Gatto e vecchio giammai non la perdonano. Muori dunque e discendi a raccontarla questa tua bella ciarla alle tre filatrici del diavolo. I figli miei ci penseranno da sé, intanto io penso a me. Se vuoi che una moral adesso stringa è questa: giovinezza si lusinga e spera di ottenere sempre pietà, ma la vecchiezza viscere non ha. Fine della favola Il vecchio gatto e il topolino. Questa registrazione è di dominio pubblico.